Presi per i fornelli. La speculazione, a volte, è il fumo che nasconde l'assenza dell'arrosto. Qualcuno, spingendosi oltre, lo chiama marketing. Altri, populismo, demagogia, controinformazione, manipolazione. Nel nostro caso, arieggiando bene le stanze del potere, l'arrosto però c'era. Bruciatissimo, anzi carbonizzato, il risultato di una dimenticanza nel forno ad altissime temperature. Ed ecco lo spread. E per quanto possa essere buona la carne, se sbagli la cottura, l'esito è inevitabile. Senza contare che in Italia, questo è il punto, abbiamo comunque fallito anche preparazione, presentazione e scelta degli ingredienti. Arrosto all'italiana. Ecco gli ingredienti per 60 milioni di abitanti. Debito pubblico 1.900-2.000 miliardi, a piacere. Disoccupazione, 2,5 milioni di persone. Precariato, come se piovesse. Evasione fiscale, 150 miliardi, ormai a temperatura ambiente. Riforme, se trovate quelle di stagione. PIL, solo un pizzico per la improbabile duratura.